È la 13ª edizione di Serate nel Chiostro per Radio Città Fujiko, William Piana, insieme al professore storico Giovanni Brizzi, che darà il via appunto a questa serie di incontri. Intanto buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. La realtà del filo conduttore di questi incontri è purtroppo quanto mai attuale e anche tragico. Come sarà strutturato il motivo di incontro che porterà? Tre serate con diversi temi, con diverse scansioni. La prima dedicata all'antico, anche lì cercheremo di vedere i rapporti tra società e guerra, io ho sempre cercato di farlo. La seconda, età medievale moderna, quindi tematiche, quindi diciamo così motivi, quindi realtà un tantino diverse, per esempio un più pronunciato aspetto religioso, perché in antico io credo che solo le guerre tra Roma e gli ebrei siano state ispirate da questo tema, mentre l'Europa di età moderna ha questa caratteristica. E la terza con un aspetto più filosofico, forse etico da certi punti di vista. Ecco, un'indagine che non sappiamo ancora quali risultati darà. Ecco. Ma ovviamente ha dei rapporti e dei parallelismi con l'attualità assolutamente importanti. Parallelismi sono enormi, la guerra è, Tucidide ha detto, la maestra crudele che guasta il benessere del mondo, il benessere degli uomini, adesso cito a memoria. Si è tentato di esorcizzarla in tutte le maniere, io credo che la forma forse di esorcismo ancora più valida sia quella romana, con l'istituzione del diritto, perché il diritto è alla base della stessa concezione che hanno i romani della guerra, il che non vuol dire che non l'abbiano fatta e che in qualche caso non l'abbiano fatta anche con estrema durezza, però il principio era che doveva essere un bellum iustum ed era non solo formalmente giusto, era sostanzialmente giusto, sostanzialmente. Basta leggere Sant'Agostino e uno se ne accorge, Sant'Agostino riprende Cicerone. Ecco, le guerre successive sono tutte specchiate sulle loro epoche, io credo che l'epoca attuale sia la più pericolosa, perché i mezzi di distruzione di massa hanno reso già la Seconda Guerra Mondiale la guerra più terribile che ci sia mai stata. Una guerra attuale realizza l'ossimoro perfetto, cioè la capacità di autodistruggerci e la mancanza a volte dei freni che ci impediranno di farlo. Per ora questi freni hanno funzionato, speriamo che continuino a funzionare. Insomma. Chi sarà vicino a lei nella serata in cui ci sarà il suo incontro? La serata in cui ci sarà il mio incontro c'è una giovane studiosa che si chiama Aglaia McClintock, e che si occupa, direi, anche lei molto dell'aspetto del diritto. Ci sarà Andrea Sant'Angelo a fare da moderatore, il mio amico Andrea, che vediamo come modererà la situazione. Non credo che ci sia gran bisogno di moderare niente, tra me e la fanciulla che sarà al mio fianco, la brava studiosa che sarà al mio fianco. Ecco, io penso che sarà una serata tranquilla, poi vedremo. Je m'engage et puis je vois, diceva un maestro della guerra come Napoleone, proviamoci e vediamo dove andiamo a finire. Le serate saranno il 5, il 13 e il 19 settembre, 13ª edizione di Serate nel Chiostro, la curatela della casa editrice Il Mulino. Grazie professor Brizzi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti.